su info, salute e società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. La rubrica So Info, che nel corso dei prossimi 4 mesi vi accompagnerà con informazioni e consigli pratici sui temi della salute attraverso uno sguardo plurale, il punto di vista della donna, delle bambine e dei bambini, non poteva che cominciare dal tema della preparazione al parto, il vero grande inizio per ognuno di noi. A tal proposito ascoltiamo le parole della coordinatrice ostetrica del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Treviso, Mary Bottarella. L'importanza dei corsi di preparazione al parto nei consultori è quello di dare informazioni alla donna e alla coppia riguardo il travaglio e il parto. Figura fondamentale è sicuramente l'ostetrica, che prenderà in carico la paziente già durante la gravidanza, soprattutto durante il parto in sala parto e nel puerperio, seguendo l'allattamento ed eventualmente le visite domiciliari. Chi è l'ostetrica? L'ostetrica è quella persona, quel professionista sanitario che gestisce in modo autonomo il travaglio, il parto, e ha la capacità di capire quando è il momento di far intervenire il medico se ci sono problemi a carico della gravidanza, del travaglio e anche a carico del bambino. L'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Treviso offre questo tipo di assistenza, quindi l'assistenza del travaglio è affidata all'ostetrica per quanto riguarda l'aspetto fisiologico, mentre per quanto riguarda l'aspetto patologico è a carico del medico. L'ostetrica seguirà quindi la donna dal momento del suo arrivo in reparto fino al momento della dimissione, prendendosi cura anche del neonato. L'importanza della comunicazione tra donna e paziente è questa, perché è fondamentale durante il parto, è fondamentale che la donna manifesti quelli che possono essere i suoi desideri. Quindi presso questa nostra unità operativa si può partorire nelle posizioni che si preferisce, si può tenere il bambino a contatto con la pelle per le prime 2 ore dopo il parto, si può decidere o meno di allattare subito dopo il parto. Per quanto riguarda le visite nella nostra unità operativa, è possibile collegarsi al sito internet dell'azienda ospedaliera di Treviso e è presente un foglio per l'iscrizione a questi incontri con i futuri genitori. E in questo incontro ci sarà la figura dell'ostetrica, del medico. Abbiamo inserito la figura dell'anestesista perché dal 1° di novembre parte ufficialmente il parto in epidurale anche presso la nostra unità operativa e sarà presente il neonatologo per quanto riguarda invece l'aspetto del neonato. Un tema importante che viene affrontato ai corsi preparto è quello della donazione del sangue cordonale. Tutte le coppie, italiane e non, che aspettano un figlio al momento della nascita possono donare il sangue contenuto nel cordone ombelicale, ricco di cellule staminali emopoietiche e sempre più utilizzato nei trapianti in alternativa al midollo osseo. La donazione è indolore, non interferisce né rallenta le cure prestate a mamma e bambino e non comporta alcun rischio. Tuttavia può rappresentare, in caso di compatibilità genetica, la via di salvezza per un paziente affetto da gravi malattie del sangue che necessita di trapianto. Si tratta dunque di un gesto semplice, ma dall'enorme valore. Le future mamme, attorno al 7° mese di gestazione, possono prenotare l'anamnesi gratuita e offrire la propria disponibilità al dono, un gesto che rende ancor più speciale la nascita del loro bambino. Sono già oltre 1000 le donazioni conservate nella banca del sangue cordonale dell'ospedale di Treviso, a disposizione di tutti i malati che ne avranno bisogno. Per ulteriori informazioni è sufficiente contattare il centro trasfusionale dell'ospedale di Treviso, dove ha sede l'associazione Admor Adoces. Le volontarie sono a disposizione tutte le mattine. Telefono 0422 40 5179. www.donatori.linetta.admor.linetta.adoces.it. Su info, salute e società.